Mariachi e tacos, guacamole e Frida Kahlo. Il Messico è mille e una sfaccettature. Paese imponente, terra magica, ricca di sapori e colori, un mondo travolgente e capace di conquistare. Il nome, d'origine Nahuatl, fu usato per indicare il territorio su cui si estendeva il dominio dei messicani. Eccoci qui, nello stato più settentrionale dell'America Latina, gli Estados Unidos Mexicanos. Cucina dai mille sapori, i messicani non scherzano davvero ai fornelli. Per questa ragione siamo pronti a raccontarvi la storia della cemita, uno dei panini più famosi e amati dai messicani, e non solo. Originario di Puebla, il termine si riferisce al pane, più che panino in sé. Ricoperto di sesamo, è un panino con un gusto lievemente dolce il cui impasto contempla l'uovo tra gli ingredienti e a tratti ricorda la classica brioche che siamo abituati a mangiare a colazione. Starete pensando, ma questi col fuso orario hanno dato de matto? No, tranquilli. Questo panino sposa benissimo con gli ingredienti tradizionali, tra cui l'avocado, mozzarella e la nostra cotoletta alla milanese. Convince praticamente tutti. Nella componente alcolica, invece, non potevamo esimerci dalla tequila, regina di questa sera. Il margarita è il primo della lista. Abbiamo aggiunto due cocktail molto in voga in Messico, riscoperti negli ultimi anni. Un proverbio locale dice: a falta de pan, tortillas. In mancanza di pane, vanno bene le tortillas. Ah, ce ne stavamo dimenticando. I mariachi di Guadalajara accompagneranno la cena al suono della vihuela. È richiesta un'offerta di 15 euro. Grazie per l'ascolto.